tante cose, una lacrima sul viso. Troppo. Abbassa un po'. Sul viso. Frammentario. Va bene, no, abbassa un po' di lei. Abbassa un po' di lei. Ecco. Perché è intorcigliato qua?